Molto spesso la visione è database centrica, cioè è basata sul database, cioè sul, non solo il modello interno, ma il modello interno persistito. Ok. In realtà, progettando queste API, converrebbe proprio partire al contrario. Cioè, prima bisognerebbe pensare non neanche alle API, prima alla funzionalità che deve svolgere il servizio. Parlavamo prima dell'attività formativa? Allora, se si deve dire, guarda, questo deve essere contesto specifico dell'attività formativa, quindi deve essere il punto di riferimento per chiunque ne abbia bisogno, sia per modificarle che per leggere. Potrebbero essere anche i piani, potrebbero essere invece direttamente in visualizzazione gli utenti o chi fa la programmazione didattica o gli studenti. Quindi pensare prima alla funzionalità. Sì. Successivamente pensare alle azioni, alle operazioni dell'API. Sì. E quindi dopo al modello esterno, cioè prima dici qui passo un'attività formativa, poi la vai a guardare, dici serve per lo studente quindi ci metto queste cose, serve per invece le scuole quindi ci devo mettere magari un dettaglio più importante, non so, il ciclo, classe ministeriale, eccetera. Solo a quel punto incominci a pensare al modello interno. Ribalti completamente, sì. Diciamo. Perché come viene persistito non ha alcuna rilevanza rispetto a come viene fuori per gli utenti. Ok, come sempre, diciamo, le cose si possono approcciare da un lato o dal suo opposto. Sì. Ora però ti chiedo questa cosa: in una realtà come è la nostra, è inevitabile confrontarsi con degli software esistenti, e proprio perché, come dicevi prima, spesso si ha più un approccio database centrico, dei database già sì, i nostri definiti, ora correlazionali, esatto, o anche con le strutture dati già esistenti, con dentro tanti, certo, tanti tanti dati che non puoi certo fare finta di non avere o richiedere di certo, reinserire da zero. Come fai allora a sfruttare un database già esistente e portarlo magari all'approccio opposto del... E a maggior ragione, proprio perché tu hai già un database esistente che magari vuoi cambiare, che magari non pensi sia più adatto, che magari ha bisogno di svecchiarsi, insomma, in alcuni punti. Se tu continuassi a lavorare su quello, a pensare ai dati come sono persistiti, li riproporresti all'utente nello stesso modo. Prova a fare il contrario. All'utente, cioè ai clienti del tuo servizio, intendo dire, gli proponi come servono a loro. Poi internamente provvedi alla trasformazione tra come sono sul database legacy, su quello di cui parlavi tu, e come invece vorrebbero essere fuori. Così intanto hai già risolto metà del problema, perché ognuno di questi microservizi ha un suo database. Quindi arrivi a fare un refactoring del database? Con calma, prima faccio una cosa solo esterna. Il database rimane quello vecchio, ma l'utente ha già i dati come gli servono. Poi piano piano, senza disturbare nessuno, facendo dei deploy indipendenti, io modifico il mio piccolo database in modo tale che sia più adatto alle mie esigenze. In realtà la modifica della persistenza, a quanto sembra, è una delle cose che fanno di più. Cioè la fanno di più per la scalabilità, a dire il vero. Cioè perché mano a mano utilizzano database sempre più scalabili. Tipicamente Netflix è passato tutto a Cassandra. Cassandra è un database SQL che però è già nato per essere ridondato, sia per nodi, per i dati, insomma, che per le istanze accese. Quindi è abbastanza comodo, non ha tutte le potenzialità, tutte le feature di Oracle, ma di Apache Foundation, lo usa da anni Netflix, posso dire che regge il carico se va bene per lui. Wow. Bene, cosa ci restava? Adesso ricapitolando, abbiamo parlato del contesto specifico, abbiamo parlato delle API, e l'ultimo elemento che caratterizzava invece un servizio era il modello interno. L'abbiamo già toccato questo tema, no? L'abbiamo già detto diverse volte, quindi non credo che ci sia niente di nuovo. A questo punto abbiamo capito che il modello esterno e interno non devono necessariamente coincidere, che hanno delle funzionalità diverse. Il modello esterno è pensato per il fruitore, il modello interno è pensato per me che devo invece fare il servizio, quindi anche con un occhio alla persistenza, al database che ho, quindi insomma di questo abbiamo già parlato. Una cosa interessante del modello interno, che spesso viene chiesta, insomma, è il discorso del riferimento. Cioè, fai finta che io stia facendo un servizio che si occupa di studenti, no? E a chiunque mi chiede uno studente io gli rilascio tutti i dati con anche un ID, un identificativo. Ogni volta che io rilascio un identificativo, quell'identificativo deve rimanere valido per sempre. Ok. Cioè, se ti rilascio uno studente con ID 100, in qualsiasi momento qualche altro client mi potrebbe venire a richiedere dettagli su uno studente che ha l'ID 100 e io devo essere in grado di rispondere. Ti vedo perplesso. Sì, no, in realtà lo davo per scontato. Mi chiedo perché mi stai specificando così questa necessità, diciamo, del... Per esempio, fai finta, prima parlavamo di un servizio che mandava un'email. Ok, che manda un'email allo studente. Diciamo che l'abbiamo fatto in modo asincrono, l'email non viene spedita sul momento, ma tramite un servizio di coda tra me e diciamo RabbitMQ, a un certo punto viene spedita. Ok. E ti viene detto di spedire una mail per l'indirizzo, per lo studente che ha un certo ID. Sì. Tu cosa fai? Vado a chiedere al servizio che è competente per l'anagrafica degli studenti i dettagli di quello studente in cui mi aspetto di trovare l'email. Perché? Perché pensi di aver bisogno di rinfrescarli? Perché un'alternativa sarebbe che l'evento contenesse già l'indirizzo email. Oppure, sì, anche così. Però vedi, il tema è questo qui. Cioè, quando... visto che le cose avvengono in momenti diversi, ci potrebbero essere immagini di questo modello esterno, del mio modello interno, sì, tramite tanti modelli esterni, sì, diversi, cioè anche in stato stale, magari, sì, qualcuno ha un dato certamente vecchio. Perché se io se nel frattempo qualcuno ha cambiato l'email di quello studente e io nella coda che deve mandare l'email ho messo anche l'informazione dell'email, a quel punto ho un dato vecchio. Infatti questo punto è un argomento molto critico, nel senso che spesso viene cioè è una critica che muovono i microservizi, che devono richiedere molto spesso il modello. Cioè, visto che non sei tu che sei il servizio postale, non sei autoritativo per quanto riguarda lo studente, devi richiederglielo. E quindi dicono, questo genera molto traffico di rete. Sì. È vero, cioè, l'argomentazione è valida. Ci sono molte tecniche, tra cui anche il caching, per risolvere questi problemi. Assolutamente. Però a questo punto io volevo fare notare che il tuo modello interno è interno tuo, ma avrà comunque dei vincoli e dei riferimenti all'esterno. Questo ID qui diventa come posso dirti, è un po' come il codice fiscale per il Ministero, sì, delle Finanze. Infatti, quindi, cioè, per questo dicevo, mi stupisce che lo specifichi, perché comunque io mi aspetto al di là di tutte le informazioni tra virgolette di contorno, l'identificativo di un'identità, di un'entità, comunque ci deve essere. Mi viene da dire, non è neanche tanto parte del modello interno quanto già parte anche del modello, certo, esterno, è un punto di contatto, sì, sì, è così. E bisogna ricordarselo, però il punto è questo qui, va ricordato e bisogna capire come restituirlo, cioè restituire tutti i dati quando uno ti dà un identificativo, così come i client devono capire come fare. Cioè, mettiamo una cache lato client, mettiamo una cache lato server, mettiamo una cache intermedia come Varnish oppure Squid, non so, uno di questi due, capito? Il punto qui è ricordarsi questo aspetto. Un'ultima cosa, poi abbiamo finito perché siamo stati abbastanza lunghi. Sì, abbastanza. Era il discorso che accennavamo prima. Modello interno e indipendenza del modello interno significa che ogni servizio ha il suo database o il suo schema su un database condiviso. Ok. O proprio il suo database, nel senso uno potrebbe salvare su file system. Metti un progetto molto semplice in cui devi tenere qua due preferenze, tu potresti salvare sul file system. Torneremo su questo tema quando parleremo poi della reportistica. Però volevo già accennare da adesso che un punto forte di integrazione delle applicazioni tradizionali è il database. Assolutamente, cioè, chi non si è imbattuto in un'applicazione che integra su database? Le nostre applicazioni a Bologna erano tutte così. Gente della nostra età, diciamo, le nuove leve magari. Sì, le nuove leve. Però è un problema, perché noi vogliamo servizi che siano indipendenti, a basso accoppiamento, deployabili separatamente, fin quando il database è unico. Chiaro che non puoi farlo, quindi solitamente ognuno ha il suo piccolo database, il suo modello interno sta su un piccolo, insomma, se parliamo di, a volte anche grande, tipo le anagrafiche, gli ordini, cioè magari anche grande, però è separato, diciamo, dagli altri. E in questo torna il discorso dell'ID permanente. Questo ID permanente funzionerà come una chiave esterna, però insomma, un po' sui generis. Per gli altri database degli altri servizi. Va bene, dai. Per la quale allora a questo punto tu vorresti chiudere, ma io ti faccio il gambetto e ti dico: mi parli di chiave esterna, va bene, mi parli di database separati, va bene. E chi, diciamo, è invece abituato ad avere un unico database, a questo punto sicuramente si chiede: e io come faccio con l'integrità referenziale? Certo. A mantenere l'integrità referenziale in un sistema di questo tipo? E devi affrontare esattamente come affronti un codice fiscale. Quando prendi un codice fiscale dal Ministero delle Finanze e lo metti in una tua tabella, non puoi mettere nessuna chiave esterna dal tuo database alle tabelle del Ministero delle Finanze. Ok? E quindi lo tieni come un identificativo univoco, garantito per essere univoco, non modificabile, tutte le cose, e però la chiave esterna non ce l'hai. Ok, quindi è questo ID permanente, sì, di cui hai iniziato a parlare. Sì, e che vedremo poi nel dettaglio, ci sono varie tecniche di riversamento, che ne parliamo un'altra volta. Va bene. Niente, vi salutiamo. Grazie. Se tu ascoltatore che sei arrivato in fondo a questo podcast, puoi venire da noi con questa parola, con questo codice che adesso vi dirà il nostro collega. Il pesce di Babele. Il pesce. Vieni da noi e ci dici la parola, la frase "il pesce di Babele" e avrai un simpatico omaggio. È davvero? Sì. Va bene. Ciao. Ciao.